Pino, se mi senti. Marco, mi ascolti? Quant'è il segnale, quant'è? Hola. Perché c'ho il telefono, il baracchino acceso. Guarda il mio segnale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 12, 4. E lo stesso, Santiago 7, sì. Ciao, ho chiuso, va bene, grazie al controllo, buona serata. Ciao, sei al tempo. Oh Marco, è caduta la linea. Eh beh, Billy, su chiamiamo, su. Canale 10, c'è qualcuno? Number two, come on. Speak, no doubt about that. Take care, tell everybody hello around. They talk, come on. Running good in the Magnolia Station. This is it, jump. You take care on that end, and I appreciate the shout. Take care, number two, radio station two. Jawbreaker, Magnolia Briscola, su che abbiamo?